impianto, dai. Che adesso me l'ho fatto bene, me l'ho fatto perché era un casino che no, non mi andava. Adesso sto facendo gli ultimi ritocchi e sono a posto. Ciao Luca, buonasera. Buongiorno anzi, mamma mia mi sta gira. Vabbè, ma messo a posto tra questo linearetto, no? Sì, dici che ha mal di banza, Dici che ha mal di banza, non so cosa è successo, boh. Va bene, va bene. Io rimango sempre nelle mie, poi tu sei libero con i soldi tuoi di buttarli dove vuoi. Andava bene com'era quel lineare. Da giù tu dove vai? Da una Zicosento o una Ferrari? Non si può fare. No, è giusto per migliorarlo, per far guardare quel difetto. Non è niente di più, me. Quel difetto che faceva, ma me lo tengo 30 la buccia e via. Non è che, capito? L'altro invece che hai preso, sei riuscito a farlo funzionare? Pare che ci andenti. Comunque, dalla prima alla sesta non cambia niente da me, poi non lo so. Non lo so quanto possa, non lo so. Per me il segnale è sempre uguale, sia con un lineare che con l'altro. Kappa. Ah, oh, vabbè, dai. Pazienza, non lo tengo così. Ci funziona, sì, no, già andava bene una testa. Sì, che funziona, ti aumenta quei watt che ti aumentava l'altro più o meno, beh. Ora l'altro non cambia niente. Perlomeno io noto così, poi non lo so, già l'hai visto quello che c'ho io, quello ogni potenza c'ha il suo cambio, ma perché i watt aumentano lì evidentemente c'è qualcosa da vedere. Vabbè, vedi tu Anto, non fa danno, tieniti le cose che hai e intanto non pensare che ne va che era bene. Vabbè, già andrà bene, dai. Cosa devo fare? Quello là lo lascio dentro la busta, non lo piazzo adesso. Stavo cercando di farmi una trazione come si deve, perché qua è un casotto, veda. E quindi mi piano piano sto togliendo la roba che non mi serve, sto mettendo tutto a posto, eccetera. Luca! Buongiorno! Adesso ti rilancio. Per prendere abbassa il forno, sicuramente. E anch'io fra un po' vado ai fornelli, sto aspettando che terminano di fare pulizia e poi andiamo ai fornelli. Kappa, mi sono preso un altro alimentatore da 30 ampere, almeno c'ho più ordinato, più piccolo e più tutto, capito, Kappa? Già me l'hai detto ieri, già va bene. Gli alimentatori devono essere buoni, devono funzionare bene. Poi, come ho già detto, ricordatevi, un linearetto trasistorizzato è meglio metterlo da solo, un'alimentazione diretta da solo con un altro alimentatore, perché può creare problemi con la stessa alimentazione, capito, assorbimento superiore, eccetera, eccetera, ti può fare rientro. Va bene che va bene, no, io ho già tutto organizzato bene qua, dai, non c'è problema. Kappa, allora mi vado, lasci baracchini, non succede nulla, che c'ho 80 senti, se lo pongo, tu mi sciado, mi si suda, ma roba la macchina. Allora, facciamo così, ciao Antu, facciamo così, 50 ampere, questo qua, 50 ampere. Questa nuova stagione tutti modificati, io tanto il mio non lo vendo più, lo tengo io, cado, ce l'ha, io tanto la trista di Brudù, Massimiliano già ce l'ha e ci andiamo a 45 a fare casino. Con la calma, piano piano, senza fretta, una cosa alla volta, no, che di naso a poco a poco me. E se travagliani, vabbè, ti hai preso anche la casa, paghi l'affitto tutto quanto, che tu hai una spesa. Vabbè, pure io con un sacrificio me lo sono comprato, non è che me l'hanno regalato. Io lo tengo per così, chiuso per fare due chiacchiere come un baracchino normale. Quando devo andare a divertirmi come fanno tutti nel canale 45, vabbè, mi diverto, no? Non me ne affutti nulla, capito? Kappa, no, già mi piace pure a me, la verità, però le cose un po' alla volta, chi di nave mi sono proprio. Oh, patro! Già che mi sono fatto una bella sanzioncina, cavolo! Mi sto impegnando a mettere a posto, a tenerlo tutto bene. Insomma, dai. Beh, è normale, oh Antu. Ti ho già detto che per fare questo tipo di attività o ti accontenti di avere un baracchino, un alimentatore o un'antenna e va bene così, ma se poi vuoi diventare un po' più grande, avere altre cose più professionali, diverse radio eccetera, ci sono sacrifici da fare, Antu. Ci sono sacrifici da fare, ok, quindi oppure non comprare una cosa per comprarne un'altra, se uno ha quella disponibilità. Io, grazie a Dio, ho la disponibilità per casa, ho la mia disponibilità a parte, e quando ne ho me le investo in radio perché mi piacciono, basta, tutto lì. Ma non disdetto mi stesso di casa, ma a comprare radio, nel modo più assoluto. Ora, dico la verità, Cla, sono molto, molto, molto contento di quello che mi sono creato. Era il mio sogno di avere una bella stazione. Cioè, la verità, sono molto contento, la verità. Ci sto riuscendo piano piano a averla come voglio io e sono contento, sono contento. Bombolino, bomboletto. Ui, buonasera Tolino. Buongiorno Antu. Non è che c'hai uno di quegli spinotti A4 per metterlo in quel microfono da tavolo? Il tuo piazzato ce l'avevi? Sì, me l'hanno piazzato quello lì. Ma da lì, volentieri, se ce l'avrei avuto sarei uscito adesso per la preda al volo. Non ne ho manco uno, me li ho qua, la sera già a bozzo. Appena io ho 5 minuti vado a Fusaro, me ne compro un po' e me li metto da parte, perché qua non sei buono. E mi devo mettere a parte un pochettino di ricambi, perché no, non si muove, no, che ti faccio un pezzo e non va al ricambio. Perché quello che ho io è a 8 e non va bene. Vabbè, là, tutti dimmi. No, guarda, te l'avrei dato, quella 4 che mi ha dato su, ci ho piazzato questo. Bene, funziona? Ha voglia che funziona, ha voglia. Ma taglio col cuore, vabbè! E vai, col cuore ne sarai tu, eh? Ma taglio c'ho curto col cuore! Nefino! Natalino, c'ha corso col comane! Natalino! Devo cercare quel cane che hai tu, hai capito? Bello bello! Ti faccio scilucci di fura! Natalino, pirivella! E qua, anche l'eco, bubu! Faccio scilucci di fura, ti faccio schiatta! Ce l'abbiamo, lo abbassiamo e lo tiriamo su quando serve, dai. Ma già conviene parlare così qua, se no poi ti criticano, sai. Ci sono quelli che criticano, vabbè, lasciamoli criticare. KK è K dell'osmetro, è bello, non hai fatto abbassare il forno oggi? No, basta, senti il vulcare. No, oggi orecchiette ai broccoli. No, noi ravioli. Salmone, poi vabbè, salata, frutta, si va bene da mangiare. Ehi, va bene, va bene. L'importante è che cosa mangiare. E beh, tata lì, è tu roba buona c'hai, ci inviti. Voi, beati voi che potete mangiare, io manco mangiare posso. Ehi, dai, da bisogna mangiare almeno la domenica qualcosa di sizioso, già va bene. No, volevo fare anch'io due pennettine al salmone o luce, no, in frigo. Però l'aria preferisce le orecchiette con i broccoli, capito? KK, e tu Antu, sugo fatto non hai? Ma ancora no. Ancora no, la verità, fra un po' lo faccio. Tanto lo possiamo mangiare anche alle 2, no? Non mi interessa, capito? Ancora non ho giù fatto nulla. Ehi, vabbè. vabbè, sono mezzogiorno meno 20, ancora è presto, dai. Adesso è mezzogiorno un quarto, appena termina l'ora di fare le pulizie me ne vado in cucina e poi via. KK, Lugarie, stasera le due favorite, Inter e Juventus, beh. Ui, come sto? Sono salito a Villa Juve, ciupa! Io non lo so, Claudio, io non lo so. E mi sto preparando la bella cremetta fresca, tanto tu non ci vieni, e me la bevo io piano piano. No, lo sai che ti voglio bene, non mi va bene che ti goci. A Villa dove sto scendendo di nuovo, ne ho approfittato bene nel periodo delle feste e ho preso almeno 2-3 kg e li sto riportando giù perché altrimenti mi fa male la schiena, Lu. Capito? Se non lo sai, volentieri. Anche se non ne sto bevendo più, però una in compagnia non fa niente, capito? Però mi va a ringraziarlo. Piano piano, piano piano, sistemando. Cazzo, quanta pazienza che mi può. Compro? Vendo una in pulla, giusto così, un assaggino. Tutto qua. Aperitivo, me. Tutto qua, gara, tutto qua, gara. E poi se tutti lo in pulli io la sagubba, uno solo è boh, se sto per fare l'aperitivo, e l'altro magari prima dopo fritto, dopo pranzo. Comunque è sempre in frecca, frecca frecca, buona, eh. Ehi, Luca! E Antu? Capa, cosa sono? Sul DB sono a casa tua. Cosa sono? Quando sto arrivando? Guarda, non sono a casa mia, sono da 25, vai. 1-3 prova? No, sul più, sì. Stava bene. Chiede Natalino, sto bevendo anche una crema di whisky tu, a voi. Non ne posso bere, già lo sai. Ma poi tu non bevi, vero Natalino? Non hai bevuto. A me non mi piace, col naso. Vabbè, Natalino, dai, non bevi, in compenso sei cuocomane. Vai Luca, malincomio, cuocomane, vai. Ma curti, sempre con uomo lei, Natali. E allora? Sì, vai, chiedimi, il divano, Edu. Fatto è oggi. E allora, non lo vedi, cosa se ne ha fatto? Dici chi? Che storia. Ma con uomo lei, o eroinomane? Ma con me due. No, lui c'è la snifa, è con uomo lei. Comunque, Claudio. La crema di whisky per i diabetici non va bene, sappilo. Natalia è diabetico, poi non ne può bere, ce la crepiamo noi. Non è una critica, Natalia, purtroppo. Anche mio fratello è diventato diabetico, Giovannino, quello più grande. Quello la pastiglietta, non fa insulina, Dice salita anche a 350, mi sa. A me non mi sembra assata così. A me me l'ha tolta l'insulina della cena e mi ha dato la pastiglia, ma mi sa che non funziona. Secondo me sta andando solo a tornare l'insulina. Ma scusa un attimino Natali, quanto era la glicemia, quanto ce l'ha? Sì, ce l'ho sempre bassa, infatti me l'ha tolta per quello, quella della cena, me la voleva togliere tutte e darmi le pastiglie, ma io non ho voluto. Ascolta una cosa, se tu ti regoli col mangiare, con il sale, con gli zuccheri, va bene anche la pastiglietta, mamma no, mamma ormai è fuori, proprio fuori, un bel. Se anche lì sarebbe stata bene, se ho l'insulina della notte va bene, ma la pastiglietta non regge più, ormai non la copre più. Invece se tu ti sei regolare, che non fai cazzate, va bene anche la pastiglietta, non stai lì a pungerti, quanto tempo se ti pungi, poi è un casino, ti rimangono le macchie. Già lo so. Vabbè, cosa vuoi fare? Io già ce l'ho sempre bassa, non è che sale più di quel tanto. Vabbè, io finché sono così sano qui approfitto, poi qua no, non mi verrà neanche a me della biglielucci. E tu sei predisposto, devi stare attento. Se la mamma gioia ti avrà detto, devi stare. Vabbè, mio fratello era un po' esagerato nel mangiare, Oh, torno subito che devo fare una cosetta dopo. Anche io mi devo assentare che devo controllare la stufa. Allora, riprendi anche un attimo. Capa, da lì. Beh, se è troppo bassa non va neanche bene. Non va. Cioè, deve esserci una cosa un pochettino più... più a posto, dai. La mazza che ti ne varia. Non è bassa bassa, no. Diciamo, è regolare, dai. Scappa, non so già. Saturo sono, tali. No. Andà bene, dai. Ho rimesso a posto un po' la stazione, ho rimesso a posto. Sì, cazzo, cazzo. Sono contento che quel microfono va bene. Ma perché non lo senti? L'ho abbinato all'87 col coso, Natalie. Con l'MB4. Cavolo, ma se ce l'avrei avuto sarei uscito, te l'avrei dato subito. A me uno manca a tirare la palla, ma io me li metto di scorta qua. Perché può capitare che ci rompa, mi capito? Sì, infatti. Capi, è che io non ho modo di andare a comprarmelo, se no sarei andato e me l'avrei comprato. A chi si negava una macchina, dai, no, che guai. Non c'è più parcheggio. No, te lo prendo io domani, non c'è problema. Appena che posso, passo un piglio. Sì, fai così, mi faresti un gran favore. Ma ci mancherebbe altro. Domani vado a pulsare e te lo compareggio. Cara cara, la mia la radio com'è? Buona, Natalie, buona. Sì, il microfono normale, mi questo. No, farà, aumento un po' il vate. Chi te lo scudo? Aumento un po' il vate della radio. Così già va bene. Cara cara. Come? Cercando di riordinare e mettere tutto a posto, perché la stazione mi piace a posto, a me era un casino questa, un casino, no, non si budia più, non si budia più, la verità, devo trovare quello a fare pure del microfono, ma perché se mi bagna poco da ghiaccio, non mi pare di no, boh. Ma si intende Sara con un buon atteso, Natali? No, non si sente. E giù, con la sua capelli acceso. Vabbè, dai, ti lascio che me ne faccio un ascolto che devo cucinare. Ci sentiamo alle prossime, Antu. Ehi, Natali, non c'è problema. Prova radio. Chi è avanti? Roberto, dice? Antonio Soma, buonasera. Anzi, buongiorno. Buongiorno, ciao. Cosa ci dici? Mettendo a posto la stazione, Roberto. Non ho capito. Mettendo a posto la stazione. Ok, miglioria, hai fatto qualche lavoro? Sì. Innanzitutto oggi ho fatto polverato, pulito, tutto. Allora gioca qui. Piano piano. Ma là c'è solo un baracchino o ne hai più di uno? Più di uno c'è nel baracchino qua. Ma ne usi uno soltanto normalmente? Sì, è che te ne devo trattare i baracchini, lento. Alleluia. Lascio come un dente in terra. Piano piano. Qua c'è il baracchino, il rimettatore e la suffetta. Sì, più di una. Vabbè, l'importante è che ci facciano sentire e basta. Poi trovare l'abbinamento giusto con microfono, antenna e apparato e poi va tutto bene. Sì. Andrò a evitare la truffa. 9 più 30, sì, qua. Scappa. Eia. Penso che già andiamo. Adesso mi stavo spolverando, facendo, pulendo di tutto. A me piace la pulizia, mi piace. È giusto che sia. Dimmi una cosa, che baracchino è tuo? 87 con l'MB più 4. Ah, già spinge. Dammi, vabbè, solo per curiosità, cosa segna quello lì, quel baracchino, anche se non è che sia molto... Sei quasi 9.30, in occhi. Più o meno lo stesso, vabbè, diciamo più o meno lo stesso del segnale relativamente, perché abbiamo condizioni diverse, comunque ti ascolto forte e chiaro. Ok, ma non c'è nessun altro? No, c'era Claudio, purtroppo qua, altra gente, poi, come si dice, allora, perché... tardi e ce n'è per i fatti propri. K, guarda adesso a vedere, ci è aumentato da qualcosa da te. Appena un peluzzino più di 9+30. Ah, lasciamola così che è meglio. Prova a fare il pulito senza niente, per curiosità. Ora, 1, 2, 3, prova. Si ribatte. Guarda a vedere com'è. Adesso sei liscio, senza niente. K. Ah, sei 9,25 quasi. Solo di apparato. K, tutti i batti aperti quant'è? 9,30 è un peluzzino un pochettino più di 9,30. K. La voglia ce n'è per i pulci. Aspetta. Non così. Ora, per un attimo. Ma com'è a valvole l'apparecchio? No, ma che deve essere la valvole? La stufa sto dicendo. No, negativo. Trasistorizzata. Ma con l'alimentatore suo incorporato o separato l'alimentatore? L'alimentatore separato. L'alimentatore è un 30A, se no non ci boccia. No, perché li fanno anche con l'alimentatore incorporato, quelli un po' più pesanti. No, non ne vogliono. A me avere questi cazzo di alimentatori, già le radio io le preferisco tutte basi, non mi piacciono i baracchini piccoli, ne ho tanti, però tutti a base, perché c'ho la 48, la su cos'è, altri due o tre di questi veicolari, però non mi piace, anche se devo dire la 48 esce bene con come l'M93 che l'ho mandato Luca anni fa, leggermente modificato, però esce che a me non mi hanno detto che esce bene, è forte. Perché questo non esce bene col microfono normale, cosa c'è da dire, non è un baracchino. Non è meglio o peggio, però a me non mi piace tenere i baracchini e il microfono in mano, a me piace il microfono a tavolo. Lo so, ma questo non si può mettere il microfono a tavolo. Questo è tutto chiuso così e poi, capito, cammina anche così, chiudiamo tutto a posto. Ciao, ben sentito. Buongiorno. Io mi sono con questo, sono 3009 Colt, veicolare 240 canali, microfono normale, quando devo usare nel 45 apro l'ecco, quando devo usare nel canale 10 lo chiudo, ed è un microfono normalissimo, ed esce molto bene. A ti piace il genere? A me piacciono le radio tranquille. Perché questa cosa c'ha? Non mi dica che non è tranquilla così chiusa, anche così non va bene. È un bel forte, è un bel, come si chiama, amplificata. Ciao, diciamo radio da camionisti, dai, classica radio da camionisti. Se è normale la radio, ma cosa per amplificata? È normalissima, è tutto chiuso. Il Mickey Gain è a metà, normale. È che spinge perché c'è il doppio modulatore, quindi sembra che stai usando un microfono preamplificato. Non ho capito cosa che vi piace a voi, boh, fatemelo capire. Cioè questa è una radio normale, normalissima in questo momento, capito? Quindi va meglio l'MC60 tutto a manetta, oppure va meglio tutte le altre radio che uso col microfono preamplificato? Questa è la mia voce, non è che... Microfono normale. Se poi più preamplificata di un MB+5 di un Turner, boh, allora ce n'è un po' tutto. È diversa, non è la tua voce naturale, è una voce da combattimento per farsi sentire, però non è una voce naturale. Poi ognuno fa quello che vuole, ti ripeto, a me piacciono le voci naturali come sono nella realtà, poi se è naturale. Questa è un pochettino metallica come voce. Beh, per forza deve essere metallica, se è una radio modificata, però è abbastanza chiara, abbastanza bella, molto bella, a me piace. Va bene, ognuno dice la sua e ognuno faccia quello che vuole. Io da un po' di tempo a questa parte sono abituato a fare quello che voglio, Robert. Chiaramente sempre con molto rispetto verso gli altri, però io le radio ce le ho e le uso. Se a qualcuno non le piace, come ho sempre detto, ci sono altre 39 canali a disposizione. Capito? Io così esco perché mi piace uscire così, è un microfono normalissimo. Non ce l'ho inserito perché non lo inserisco solo nel canale 45 se devo andare a chiacchierare, ed è un semplice microfono uguale agli altri, preciso identico. Avanti Antu. Roberto Antico, non gli piace il combattimento? No, è così. trasmissione antica, ognuno c'ha i gusti suoi, ci sono quelli che se ne vanno a farsi sentire sul canale, a, come ha detto Claudio, a farsi, a chi ce l'ha più forte, dai, la radio, a chi più con più ripetizione. A me non piace, io ripeto, la radio la vedo chiara, pulita, senza per capire cosa stai dicendo, perché non dico, oh, cosa hai detto, che cosa qua, io dico, se c'è la possibilità di uscire, poi ognuno è libero di fare quello che vuole, la sperimentazione fa piacere a tutti, io cerco di uscire dagli elementi del possibile meglio che posso, non mi piace punirmi a queste cose strane. Grazie, non avevo niente di cimone da finire a Lecci. Sì, ma infatti qua adesso ho ancora abbassato un altro po' il Mickey Gain giusto per Roberto, ma ti ripeto, questo è un microfono normale e la radio è normale, perché queste radio, Roberto, devi capire che sono modificate per fare un lavoro appunto che fanno tutti ed è anche piacevole perché vai e ti diverti. Quando la vuoi usare normale la metti normale, io penso che stia uscendo normale senza niente. Le mie modulazioni le sapete tutti, le conoscete tutti, sono abbastanza alte perché a me piace uscire così. Non mi dire che a me mi hai mai sentito con microfono normale, paccato, eccetera, io microfono normale non ne uso. Questo lo sto usando perché so che esce meglio di un microfono normale e basta. Ah, io sono libero di fare come lo dico a tutti quelli che gli piace l'eco, però io la vedo diversamente la radio, forse c'ho una, cosa dire, una cultura di altro genere di cose, di alta fedeltà, dove mi piace ascoltare bene, però siccome a te ti ascolto altre situazioni è molto più naturale, questa è come che c'è una radio che sta parlando con un megafono che ti sporca un po' la voce, poi se mi dici che ti piace io non posso dire niente, continuo a parlare e continuo a ascoltarti, però se devo esprimere un parere io ti dico a me piace la radio più naturale possibile, poi se è forte, un po' più bassa, quello è un altro, però deve essere naturale. Questo tipo di radio a me non piace e uno è libero di fare quello che vuole, come lo fa, non posso dire niente. Allora, grazie, c'è anche questo. Cioè, sono pochi, ma pochi, gente tipo come me, no, è una baracchina normale, perché questa è una baracchina normale, non è modificato, microfono normale, sono ben pochi che escono bene, perché la maggior parte delle persone, chi ha il 440, chi ha il 140 o chi ha altre radio, c'è poca gente che usa il baracchino come me, Antonio, ecco, diciamo così, perché se facciamo tutti la stessa prova, sono quasi, forse si contano su un palmo di una mano, che escono bene. Guarda, io non riesco a capire perché ci sono sempre queste contromisure, chiamiamole così. Ti ripeto, questo è un baracchino normalissimo, col microfono normale, guarda. Più normale di così non si può uscire e come vedi esco sempre meglio di tantissima altra gente che pensa di uscire bene e poi esce un carraggio, capito? Poi vabbè, ognuno, ti ripeto, fa le cose che meglio crede. A me piacciono le radio modificate, le ho sempre avute, non le uso perché non mi interessa, però averle è un conto, usarle è un altro, capito? Però ci sono sempre queste contraddittorie, chi qui, chi là, quello che non piace. Quando c'è un QSO che io, Luca, Massimiliano, Gigi Vulcano e chiunque sia, parliamo qua nel canale 10, se uno non le va cambia canale, cosa? Non c'è bisogno di stare sempre ripetendo le stesse cose, ma a me così, a me colà, a me qui, a me lì. Vabbè, lo sai che io sono molto schietto nel parlare, ognuno fa quello che le pare e piace, se poi uno non le va cambia canale e fa questo da un'altra parte, no, non è che ci siano problemi, Ma non so se stai interpretando male quello che ho detto io, tu mi hai chiesto un discorso di radio, se ti piace, io ti ho detto non mi piace, poi ti ascolto comunque, se non mi piace la compagnia o spengo la radio o me ne vado un altro canale, quello è un altro discorso, e lo sai bene, molte volte non entro neanche in conversazioni che non mi interessano, quando ci sono malumori o cose del genere, qua stiamo parlando, se ti piace la radio, io ho espresso il mio parere, questo tipo di radio non è la radio che ascolto sempre da parte tua, non parliamo di baracchini o di radio più grosse, ti ho ascoltato molto molto meglio, poi tu se ti fa capire ti ascoltano, buon per te, io ti ascolto Radio 5, però non è una radio naturale, quello te lo devo dire, Cla. Poi non c'entra niente, se non mi piace non ascolto, quello è un altro discorso, se non mi piace la compagnia spengo o mi sposto, quello è tutto un altro argomento. Ricordati che per radio naturale vuol dire avere un baracchino e il suo microfono in dotazione dalla casa, nessuno qua usa radio naturali, capito? Nessuno usa radio naturale perché tutti usano il preamplificato, chi usa la radio e li apre l'eco, chi usa quello, chi usa quell'altro. Il discorso è sempre che quando faccio qualcosa io, tutti hanno da ridire, quando fanno qualcosa gli altri, tutti sono d'accordo. Ma a me, ti ripeto, ciò che dicono, ma non perché lo stai dicendo tu, chiunque lo dice, mentre non è che mi esce nell'altro. Io ho imparato a farmi i cazzi miei, a usare quello che mi pare piace, e ripeto, ribadisco che se a qualcuno dà fastidio, ci sono 39 canali a disposizione. Ok, dai, chiudiamo il discorso, se no siamo in zona della vedete, non c'entra niente, quello, è tutto un altro argomento, quello che ho fatto io. Ok, chi c'era? Antonio, che parte già avanti, Antonio, a te. Che volevo chiedere una cosa qua. Se, allora, c'ho i cosi, se qualcuno mi può rispondere qua. C'ho i PMR, cioè, PMR LTD, quello, il mappa, ce l'ha. Se la piazza, se li piazza sopra la bassettina, sopra la bassettina in dotazione, senza attaccare la spina, non li fa niente, no? Tanto qua, non ho capito niente. Io, boh, vabbè. Non aggiungo, attacca questo cazzo di lineare, Anto, ti ascolto male io, ti ascolto male, ti ascolto, saturo cazzo, staccalo, porca puttana troia, mi fai parlare male, sei un cazzo io che va giù 2 watt e mezzo, e tu sei sempre un cazzo di lineare attaccato, faccio fatica ad ascoltarti, Anto, col baracchino. Capo, guarda se va meglio, dai, perché me lo sono dimenticato, lo stavo provando, ma sono dimenticato di staccarlo, ti stavo chiedendo. C'ho le bassettine, c'ho per mettere il Baofeng, senza attaccare la spina non gli fa niente le batterie, no? Ti volevo chiedere quello. Ma il qualsiasi caricatore con la presa attaccata, poi perché fa 220-12, all'interno c'è il trasformatorino a 12 volts, tu lo puoi lasciare anche inserito sempre con la presa attaccata, quando arriva quella carica si stacca da solo, non le fa niente, una volta si accende la luce verde, io ce li ho tutti così, man mano che li uso poi li rimetto al suo posto, si accende la luce rossa, quando poi il carico si accende la luce verde, sono tutte e tre con la luce verde accesa, sono anni che io li uso così, non è mai successo niente, se è quello che mi stai dicendo così. Capa, oh Marasucci, non ci puoi credere qua, attacco senza spina, attacco il bonfo che si accende la luce verde. Vuol dire che già carica la batteria, è meglio così, vuol dire che tiene la carica e non ci sono problemi, Anto, va bene, cosa, che problema c'è? Però sappi che non le fa niente perché hanno un'autonomia, arrivata con l'autonomia si stacca automaticamente il caricabatterie e ti dà la ricarica pronta. Tu lo puoi lasciare lì, non succede niente, non è che rimane sempre in carica e si brucia, no, non succede niente. Capo, però la stranezza mia, lo sai che cos'è, Ocra? Che la giubbuccio, se la giubbuccio dentro senza la spina e mi si accende la luce verde, paga un tipo. No, se il caricabatteria è staccato non ti si deve accendere nessuna luce, ti fa da supporto e basta, cioè da contenitore, chiamalo come vuoi, ma non ti si deve accendere nessuna spia, a tutto a te succede. Vabbè, non lo so, è una cosa che ti è mai capitata a te, a me no. No, ho capito bene il discorso, cioè ripeti Anto, che ero un po' distratto, ripeti. Metto il coso dentro la bassettina, metto il, come si chiama, il Baofeng, e mi si accende la luce, mi si accende la luce invece, proprio senza qui, con la spina attaccata a me, che è questa rola? Allora, verde vuol dire che ha terminato la carica, se no diventa rossa, c'hanno due luci, c'è il LED che cambia di colore, se ce n'è uno solo, se ne hai due ce n'è uno rosso e uno verde, quando ha terminato la carica diventa verde, infatti molte volte anche quando togli l'apparecchio rimane verde quando è inserito, poi ci sono quelli che hanno una specie di relè all'interno che quando gli attacchi l'apparecchio si accende in automatico la luce, come gli abitatori che abbiamo in officina, così diventano verdi se non c'è l'abitatore appoggiato sopra, se lo togli, cioè dopo che ha caricato, quando è scarico è rosso, poi da rosso diventa verde, se tu le togli il trapano rimane verde perché non sta dando corrente, funziona in assorbimento quello lì, non so quanti letri c'hai tu, 1, 2, com'è? Una cosa, ne sta ancora il mio, ho già mandato un video a Claudio, ne sta, stacco la spina, cioè con la spina attaccata, sei buon come un baffo che si attenderà la spiglia, roba la macchina. Ma hai capito, Roberto? Cioè, al caricatore tu lasci, perché io so come lavori tu, no? Tu c'hai i caricatori attaccati alla presa. Lui, anche staccando la presa, ok, se mette il portatile all'interno del caricatore, si accende lo stesso la spia verde, non si deve accendere. No, ma lo fa là, lo fa comunque, perché tu c'è un rientro di corrente, cioè sta funzionando al contrario il coso, è trasparente quel caricatore, nel senso va in tutti e due i sensi, è come che tu li staranno la carica tu, al contrario, che stanno, il caricatore, cioè sta utilizzando il buon frame per dare la corrente al caricatore, capitano, dipende da come è il circuito, come è costruito il circuito. Anche a noi capita molte volte, ma se è tutto trattato, come mai mi sta dando le cose? Mi sta dando la corrente, io ho un apparecchio per altre cose, lo stesso ricarico, lo fa anche quello lì, te lo fa, dipende dal circuito come è stato progettato, ma non è niente di grave quello lì. Addirittura a me mi capita anche con la corrente staccata, vedi, come mai c'è ancora, c'è un po' di carica all'interno dei condensatori e ti tiene un po' di carica. No, a me non me lo fa, io a corrente staccata, vabbè, io ce li ho tutti e tre attaccati i caricatori, li metto lì dentro e sono tutti e tre con luce verde, quando lo uno lo prendo e lo uso, che a volte mi capita di fare delle prove, ma non in PMR, in altre frequenze, la luce verde si spegne, ok, quando poi lo rimetto si accende per un 5 minuti così la luce rossa e poi ritorna verde perché sta ricaricando quello che ho consumato, capito? Però così non mi è mai capitato, tanto non lo so, vabbè. Avanti, Lucarie. Ehi, intanto mi ribassa la gana anche di parlare a baracchino, va, per carità. Nega. Cambiare un diodo e dunque c'è la corrente di rientro, che però se la lasci fissa ti scarica la batteria, perché non c'è un diodo di rientro che blocchi il rientro. Buongiorno a tutti, ciao Robert. Ha detto bene Giulio, ha detto bene, certi c'erano il diodo di coso, di blocco, fa passare solo una parte, e certi tipi di ricaricatori. Comunque, ciao, mi hai sentito, volevo dire di nuovo, bene sempre lasciarlo attaccato, la batteria con la corrente naturalmente a 220, collegata, che non danneggi la batteria, sempre bene tenerla in carica quel tipo di batteria. Ciao Giulio, buongiorno. Come ce li ho io praticamente, io ce li ho così, ho le prese del caricatore sempre attaccate, e man mano che mi servono li uso, però poi li rimetto, un po' diventa rosso, quando ha finito di caricare diventano verdi. Io anche adesso ce li ho tutte e tre attaccati e sono tutte e tre verdi, però la corrente è collegata. Così, come ha detto Antonio, non mi è mai successo, forse perché non l'ho mai fatto, buono, non lo so, va bene. Buongiorno Giulio, avanti. Ciao qua. Ehi, vabbè, dai. Questa è la discussione simile a quella di ieri sera. Vabbè, dai, non fa niente. Purtroppo è così. Evidentemente quel caricatore non c'è il diodo di ritegno. E allora fa la corrente all'inverso. Dunque, si accende il LED, siccome di solito quelle lampade spia sono a coso, come si dice, al neon, e basta uno nulla per accendersi, magari ha anche un consumo proprio quasi niente, però a lungo andare, se tu non metti la fina poi alla presa, è chiaro che la batteria si scarica, è ovvio, è normale. Va bene, dai, comunque non facciamo scuola, dai, avanti Robert. Non succede niente, no, però me l'hanno raccomandato da gente molto più preparata di me, le batterie, quel tipo di batterie vanno lasciate in carica, perché cioè dura molto più. Noi il booster che abbiamo in officina, ne avevamo cambiato le batterie, mi hanno detto no, attenzione, quel tipo di coso vanno lasciate sempre permanentemente in carica, perché noi quando era a carico lo toglievamo fuori il booster, no, lascialo in carica, le batterie hanno necessità di rimanere sempre in carica, anche se non lo usi, sempre in carica. Poi c'è un sistema elettronico che si blocca e lascia, non ti dà più corrente. Io ho capito, anch'io faccio così, però non mi è mai capitato di togliere il portatile senza che sia attaccata la presa, capito? Quindi non sapevo neanche che funzionasse a quei livelli. Io ce li ho tutti così, sempre con le prese attaccate, quando mi servono li tolgo dalla carica, li uso, poi li rimetto in carica e diventa rosso e poi verde. Giulio, non ti dico che ci sono rimasto un po' male ieri, perché avevo necessità del tuo supporto, invece non sei voluto entrare, anche perché se vai a spiegare alcune cose e poi entra un tecnico e ti dice le stesse cose e tu non... o fai finta di non capire o non capisci, i discorsi non valgono più. E cosa dovevo entrare a dire? Tanto sono dibattiti che si sono fatti decine e decine di volte, se non addirittura centinaia nel corso di questi anni. Ma cosa devo fare? La scuola guida di una parte dell'elettronica tutta la vita, ma non ci penso proprio, me ne sto tranquillo e basta. Ognuno se ha orecchie per intendere che intenda, se non pazienza, cosa che me ne frega. A questo punto ognuno dice la sua, poi c'è quello che è un po' più duro e ti contraddice, poi magari succede come è successo mia, adesso c'è Roberto qui per questa, che una volta hanno detto che voleva fare professore, ripeto qualche anno fa, quando ha spiegato una cosa che era tra l'altro utile per tutti, lui l'ha spiegata, qui è testimone Roberto, e qualcuno si è lamentato che dice ma vuole fare professore alla Yankee, dico, ma cosa vuoi che rischi anch'io che mi vengano a dire queste cose, ma non ci penso proprio, via. A fottidini, tanto sono tutte le sue. Guarda, ieri io ho ascoltato tutto quel discorso, ci sono state due cose che sono state dette giuste, barra 2 più barra 1, che potrebbe essere barra 3, potrebbe essere. E le ha dette Vittorio, le ha dette, ma dopo anche lui in un certo senso non ci è ricreduto quando ha letto le caratteristiche dell'antenna, dico, nel senso che si è reso conto probabilmente che era un lavoro fatto come si deve, perché l'antenna è stata costruita in maniera esemplare, con tanto di computer e con degli strumenti sofisticatissimi, per cui va bene così. Mi ha detto bene che i materiali dell'antenna di una volta, parlo dell'antenna in alluminio, era diverso da quello dell'alluminio di oggi, questo non si discute, però non ha detto che come antenna sia inferiore alla Mantova, no, non l'ha detto, solo che vi siete dimenticati di dire che la Mantova, il locale è più forte, mentre invece la Game Master vede un orizzonte più lontano, per cui in propagazione va un po' meglio, non sarà un granché, però qualche percentuale di più ce l'ha, tutto lì, ma comunque non stiamo lì a togliere di nuovo questi discorsi, ma che non ho importanza, prego, state lì, dai ragione, tu lo puoi ripetere 50.000 volte, la prossima volta sarà sempre peggio, ci saranno sempre delle contraddizioni, avanti Roberto. Cioè, confusione c'è stata ieri. Vabbè, mi pare che le confusioni vengano per essere costruttive, per fare qualcosa che diano delle formazioni, non fesserie. Molte volte si dicono un sacco di cose inutili, cose che vanno dette così per sentite dire e poi confondono le persone. Se c'era Vittorio penso abbia detto delle cose credibili, nel senso c'è esperienza, mi immagino anche Claudio qualche volta le avrà dette anche lui queste cose, perché qualcosa di esperienza, Giulio idem, però molte volte si dicono cose per sentito dire e lì succedono i problemi. Io su Giulio stavo ascoltando, per chiunque stava ascoltando, prima di entrare in Vittorio ho detto la stessa cosa, ho detto secondo me questo rientro di RF che hai può essere causato o dall'antenna o dal cavo, ok? Quando poi siamo andati a parlare di cavo, è successo il putiferio, basta, io non ho detto altro, ho detto che un'elettrostatica può essere o da un piano di massa internamente, i collegamenti, 220 alimentatori e così via, oppure può essere un rientro di RF, di elettrostatica, dal cavo o dall'antenna stessa, però non ho detto, non ho parlato né di Mantova, né di Game Master, né di nulla, perché a me, io conosco perfettamente la mia antenna che la uso da 30 anni a questa parte, la Game Master è un'antenna che funziona, che piace a chi piace, a me non piace, quindi non la comprerò mai, perché per come è costruita, io parlo per me, dove sono io la spezza in due, e che nessuno mi può contraddire, perché mi ha spezzato il cuscinetto reggispinta del rotore della direttiva, quindi immaginati come fa quell'antenna che lasciamo perdere. comunque, a prescindere quello, io non ho detto appunto che la Mantova è meglio la Game Master è meglio la Mantova. Stavamo parlando solo di un rientro di RF e di un'elettrostatica che è entrata dal cavo ed è arrivata alla radio, tant'è vero che ha scintillato. Di questo io stavo parlando, questo ho detto. Dopo è entrato Vittorio e ha spiegato meglio la situazione, ma penso che uno più uno lo sappiamo fare tutti, ok? E che la Game Master è cortocircuitata, questo lo sapevo, tanto è vero che ho detto, ma può darsi anche che quel tipo di antenna abbia bisogno di un cavo più schermato per avere una miglior resa. Di questo stavamo parlando, Giulio, niente di che. Poi, se ho detto coglionate, me ne assumo la mia responsabilità, ma penso di non aver detto niente di che. Poi, se uno è così, io non ci posso fare niente. Qua, punteggini, dai, tanto. No, perché se la discussione non è stata, io l'ho seguito dall'inizio, la discussione è iniziata, avete affermato che il fruscio, cioè il fischio che aveva Gianni, era dovuto all'antenna. Sono balle, perché l'antenna non ti crea nessun fruscio, ti può creare, casomai te lo può creare il cavo, perché ha dei problemi, questo sì. Invece vi siete anche dimenticati di dire questo, lui ha l'RG58 e vi spiego adesso una ulteriore cosa, ma non ve lo spiego perché io ne so più di voi, no, è solo perché si chiacchiera e voglio che queste certe cose siano chiare. L'RG58 sopporta il massimo carico di 400 watt, ascoltami bene. Ora, se Gianni mi mette un lineare che ha 300 watt di potenza, siccome i valori che ti danno le case sono sempre maggiorati, se ti dice 400 watt, magari ne regge 200, per dire, no? Lui ti mette un lineare che ha 400 watt. Che cosa succede? Sappiamo benissimo che il cavo di discesa scalda quando va in trasmissione l'apparato. Allora, scaldando, si scioglie praticamente il dielettrico. Che cos'è? È quell'isolamento che c'è fra il polo caldo e la calza. Se questo si restringe, si avvicina e perde quella sua impedenza nominale dei 50 ohm. Allora, che cosa succede a questo punto? A questo punto succede che subentra proprio il discorso effetto pelle, che è quello che c'è il rientro di radiofrequenza lungo il cavo, ma lungo solo la calza, non il polo caldo, lungo la calza. Ed ecco quel rumore, e può essere sicuramente da quello. Però sono discorsi che tu li fai e poi ti dicono, ah, che ne bussa il trucco, ma lasciamo perdere, avanti dove. Aspetta, meglio poi me devo allontanare. Sì, ma infatti se tu sei stato attento, io ho detto questa frase, ho detto, è successo anche a me con l'RG58, perché volevo mettere quello, perché l'ho passato nella zoccolatura e quindi è più fine. Ok, da una scrivania all'altra con l'RG58 mi facevo un rientro di RF su tutti i microfoni, allora tutti i microfoni sono guasti. Che cosa ho fatto per esclusione? Ho detto, mi sono rotto le scatole di questo sistema, ho preso 5 metri di H1000 da sulla mansarda, ho comprato i PL nuovi, li ho messi i PL nuovi, l'H1000, l'ho sistemato lungo la zoccolatura per arrivare all'altra base, il problema è sparito, ok? Questo ho detto io, Giulio. Quindi a un certo punto mi sono agganciato al fatto che gli ho detto, un impianto del genere, ma non stiamo parlando di tizio, stiamo parlando di chiunque, con impianti buoni, ok, a meno che non ti accontenti, ho detto, di un baracchino, un alimentatore, 10 metri di RG58 e un'antenna 10 metri, ma quando noi parliamo di un impianto fatto bene, con belle apparecchiature, ok, una bellissima antenna, è qui, ok, e andiamo a mettere 40 metri, 35 metri di RG58, abbiamo fatto un errore madornale, perché è un cavo che non serve a niente, tutto qua. Infatti ho detto, sicuramente per risolvere il problema ci vorrebbe un cavo molto più schermato, molto più grosso, punto. Però ti ripeto, se a uno più uno tu non ci metti due, ci metti quattro, allora non si può più parlare. Io vi lascio, vado ai fornelli, grazie alle due chiacchiere. e ripeto, ribadisco che ognuno a casa sua fa quello che vuole, però poi o quando siamo in QSO accettiamo le critiche, i suggerimenti, tutte le cose che ci dobbiamo dire, perché è giusto che ce le diciamo, perché la radio è fatta di queste cose, soprattutto per chi ha più esperienza. Infatti io ti ho citato in causa, ti chiedo scusa se l'ho fatto, perché ho visto che non volevi partecipare, ma giusto per ribadire tra te, Vittorio, io, Gianfranco, quelli che eravamo lì, ti chiedo scusa se ti ho citato, ma giusto perché so che hai una netta esperienza, tant'è vero che sono andato a leggere quel foglio che mi hai fatto avere tu tempo fa e mi sono accorto che intanto la perdita è allucinante, ok, e la resa in trasmissione è neanche il 50%, soprattutto per i watt, perché c'è scritto 400 watt, ma può darsi che ne regga 200, a quel punto ciò che hai detto tu fa sempre 1 più 1, non fa 4. E cambio per te, Romeo, un abbraccio a tutti, buon pranzo e buona domenica, ciao ciao. Sì, ciao, anche a te, buon proseguimento. Ha detto cose giustissime, Giulio. La cosa fondamentale, a parte la qualità del cavo, è anche la lunghezza, che influisce tantissimo. Qua stiamo parlando di un cavo economico, il cavo va bene per fare piccoli percorsi, come ha detto Claudio, di pochi metri può ancora andare con potenze limitate, perché più allunghi la lunghezza, più aumenta la resistenza, per cui c'è sempre una perdita, più sali di frequenza è ancora peggio. Pure l'effetto pelle, che l'ho detto poco fa anche io prima, forse non ha sentito Giulio quando stava parlando, è lo stesso problema, quando c'è un cavo più sottile è ancora peggio, si sente ancora di più, più aumenti la frequenza e più aumenta. Ma ci sono sistemi, l'ho detto anche l'altro giorno, per evitare questi rientri con delle induttanze, dei condensatori messi in serie in parallelo e un po' riesce a temarlo, ma quando c'è un cavo RG58 con 30 metri di lunghezza assolutamente non fai niente, ci vuole un cavo grosso, una bella schermatura, anzi se c'è la doppia schermatura anche è meglio, solo dielettrico di un certo pregio, perché c'entra anche il dielettrico, molte volte guardiamo solo il rame, ma c'entra anche la parte isolante, diciamo, del coso. E poi la calza, che è fondamentale, perché molte volte adesso i cavi di recente sono tutti, che manco si vede questa calza, vai a fare una connessione con un PL e non riesci neanche a fare conduzione, per cui a quel punto, come ho fatto l'altro giorno, uno spezzone per altre cose, dovevo fare una sonda per un apparecchio, l'ho dovuto saldare perché non riuscivo a far fare massa, muovevo e a momenti funzionante e a momenti no. Ok, ti rilasciate il mic, Giulio, avanti. Ok, ma è così, io non posso attaccare una stufa, ad esempio, che mi dà 300 watt, con un cavo che magari ha 0,75 di millimetri quadrati di sezione, ma non è possibile, devo avere minimo, devo avere 1,6 quadrati, perché se no non può reggere, non, soprattutto quando ci sono 30 metri di cavo, è ancora peggio, perché è poi un cavo tra l'altro ormai usurato dal tempo, dalle intemperie, anche se sembra che funzioni bene, ma in realtà ha perso, è tutto, il dielettrico è tutto, perché il dielettrico è quello che determina il valore ohmico del cavo stesso, se uno il cavo me lo scioglie, allora la differenza incomincia a essere sostanziale ai risultati della deficienza del cavo stesso, ci mancherebbe altro, ma si sono dette tante altre cose, sempre quello, ma comunque affrontiamo zini. Poi a un certo momento, finalmente alla fine, Vittorio gli ha spiegato che il rientro può causare questi disturbi che appunto aveva in quella radio lì quel giorno, perché non si sa mai, non è detto che l'antenna che manda spuria, no, l'antenna può essere intatta, ma è il cavo, soprattutto il cavo che manda spuria, e tanto è vero, quando ci sono le altre recezioni tipo televisione eccetera, ricordatevi sempre che i disturbi vengono sempre dal cavo, non mai dall'antenna, sempre dal cavo, e cioè dalla schermatura del cavo, non a caso ci sono cavi che sono schermati al 50%, ci sono scavi che sono scalmati al 100%, più scalmato è il cavo e meglio è, ed è ovvio. Naturalmente quando metti un po' di potenza, come ha messo lui 300 watt, deve avere come minimo deve avere un cavo che sopporti il carico, perché se no quello scalda, perché lo sappiamo benissimo, tutti i cavi di trasmissione scaldano. A questo punto se tu mi metti un cavo sottile, quando si scioglie, se scioglie via elettrico, ecco che si avvicina, la calza si avvicina troppo al polo centrale, ed ecco che incominciano a cambiare i valori ohmiche del cavo stesso, e succede il casino che succede, tutto lì. E soprattutto, e poi se ti date un cavo 400 watt, cosa pensi, che veramente ne legge 400 watt? Ma quando legge siano la metà. Se poi parliamo di altri cavi, come ad esempio l'H155, quello ti dà 1400 watt di sopportazione, magari te ne sopporta 1000, come l'H155 te ne sopporta addirittura 5000 watt, ma sono altri cavi. Intanto hai il cavo centrale solido. Cosa significa solido? Che è cavo rigido, non è capillare come tutti gli altri cavi, ha tanti filettini, e ci sono tante cose che non da considerare, ma a questo punto cosa vuoi? Uno dovrebbe avere casomai, non dico la costanza, ma almeno se non altro la delicatezza, non meno l'intelligenza, la delicatezza di ascoltare, poi puoi essere contrario o meno, d'accordo, però stai zitto e basta, ascolta, fatti un concetto, se ti piace quello che ti ho detto, lo tieni, quello che ti ho detto, se non ti piace lascialo perdere, fatti entrare da un orecchio e fatti uscire all'altro, non c'è problema con Robè, io l'ho preso così. Aspetta, che stavo ascoltando. Ti faccio una domanda, Giulio, se sei stato attento. Prima di entrare Vittorio, del cavo, l'ho detto io, se sei stato attento, che con quel tipo di impianto quel cavo non si può usare. Mi hai sentito quello che ho detto, sì? Sì, d'accordo, perché no? Ma io non sto dicendo, tu non hai niente di male, non hai detto niente di male. A me le persone che tu gli dici una cosa e poi sono titubanti nell'ascoltare e nel credere, se tu non ci credi non me lo fare credere a me che tu non ci credi, perché io l'ho preso così, è una questione anche di delicatezza secondo me, no? Allora, vai, pure dico una cosa io, vai. No, vai, che vi stavo ascoltando, volevo solo ribadire questa cosa con Giulio, perché sembra che io abbia detto delle strozzate, ma non ho detto niente di che, ho solo detto prima di Vittorio quello che può essere successo a tantissima gente, me compreso, perché io avevo un cavo buono, che era un 213 di quello a puntale rigido, però non ero soddisfatto di quel cavo, perché quando andavo ad operare in HF con le direttive anche io avevo dei rientri di RF, proprio con Giulio, e sei qua presente, che mi hai mandato anche la tabella, sono andato a comprare un H1000, sono rinato con un unico cavo di discesa, spezzoni interni H1000, adesso sono passato da una scrivania all'altra, anche con i baracchini, con questo baracchino sto usando l'H1000 come dal commutatore d'antenna alle radio, tutto H1000, l'RG58 è il peggior cavo che esiste, a meno che, ripeto, ribadisco e sottolineo, se uno si accontenta di un baracchino, guarda Luca a casa della mamma c'ha un 213, è già un buon cavo, ok, rispetto a un 58, a casa della ragazza c'è la RG58, 4 metri di RG58, un'antenna attaccata al poggiolo, il baracchino e un alimentatore, e così non c'è dubbio, va benissimo, ma quando parliamo di metri allora stiamo esagerando, perché è un cavo che non serve a niente, ti crea problemi di RF, ti crea problemi di ricezione, ti crea problemi di trasmissione, a prescindere che sul tetto puoi avere qualsiasi tipo di antenna, la migliore in assoluto, però quando parliamo di impianto, a me mi hanno insegnato una cosa, che è meglio spendere 10 lire per un'antenna ma 100 lire per un cavo buono, come le radio, uguale, sempre l'antenna comanda la radio, perché se tu c'hai una radio a 10.000 euro e c'è un'antenna del cacchio non vai da nessuna parte, se c'hai una radio da 100 lire, un'antenna buona con cavo buono, allora arrivi in capo al mondo. Questo è il discorso che bisogna che ci mettiamo in testa un po' tutti, e accettare ciò che la gente che ha più esperienza, che ha iniziato prima di noi, è tecnicamente preparata, ci dice, perché a me mi hanno segnato così. Punto e basta. Il cambio per te, Luca, vai. Sì, e poi faccio riprendere laggiù. No, volevo dire, per quanto riguarda l'antenna di Gianni,